Radio Risacca. Voci dal quartiere. Radio Risacca. Voci dal quartiere. Radio Risacca. Voci dal quartiere. Radio Risacca. Voci dal quartiere. Un po' disturbato nel suo audio. Riprovi. Ciao a tutti e tutte, benvenuti in questo meraviglioso sabato insieme a Balla coi Pupi. Benvenuti. Oggi mi sento un po' romantica, quindi iniziamo con una bella canzoncina dei Lalipuna, Scary World Theory. Microfono. Così. Your bed. bentornati in ascolto. Con il sottofondo del mio piccolino vi manderò Noi non ci capiamo dei Soerba. Altro che Sanremo, ragazzi, dai, no? Allora, adesso è il turno del mio piccoletto DJ che voleva sentire una sigla di quale cartone, amore? Tom e Jerry. E quindi adesso che ci sentiamo? Tom e Jerry. Evviva! Thank you. Ta-da-dan! E piccolo DJ, adesso che cosa ti vuoi sentire? I super pigiamini! Ok! I super pigiamini! Gatto Boy, Gufetta, Gufetta, Jacko, andiamo! Un fantastico trio che nell'oscurità sfida e combatte la criminalità. Siamo i super pigiamini, siamo i super pigiamini, furtivi, istintivi, decisivi, contro tutti i cattivi. Siamo i super pigiamini, siamo i super pigiamini. Eccoci qua, perché poi iniziava la puntata, Jordi. Dobbiamo mettere un'altra canzone. Sì, lo sai. La seconda è Mario. No, quella di Mario la dobbiamo mettere dopo perché la dobbiamo andare a cercare. Però nel frattempo che noi ci andiamo a cercare la canzone di Super Mario, ci sentiamo i Little Dragon, Looking Glass. Mi piace. Fill the heart Ciao bimbi, ora ci sentiamo la canzone di Mario! Mi ricordo con la mia migliore amichetta a giocare con il Game Boy a casa sua, perché solo lei ce l'aveva, io non potevo prendere. Eh sì, era così, Jordi, sappilo. Io volevo le macchinette di Super Mario. Ma tu ce l'hai? Però c'ho solo Luigi e Mario. Ah. Io voglio pure Yoshi. E allora troveremo anche Yoshi. E il funghetto. E anche Todd, sì. Tutti quanti, tutta la collezione. E adesso, dopo queste canzoncine di Giordano, ne metto una per mamma e anche per quelli un po' più grandi, i bimbi un po' più grandi, va bene? La vuoi presentare tu? Sì, come si chiama? Adult. Adult. Glue. Glue. Your. Highlights. Highlight. Together. Together. Senza pure a me. Ma il prossimo è poco. Eccoci tornati in onda. Adesso, dopo Pocoyo, uno dei cartoni preferiti del mio piccoletto DJ, ci sentiamo Bugo, il casalingo. Casalingo, ami il fuoco del fornello come me. Ti alzi e poi ti svegli con il granchio nel cervello come me. E vedi che la notte sua sorella sono come me. Noi non siamo umani e tu lo sai. Presentazione è molto punk, ma il cartone animato è molto soft, troppo soft, un po' tanto soft, Ma il piccolo DJ piace tanto, quindi ce l'ascoltiamo. Ok, ascoltate bene, Preparatevi per un bel poco. Ringo Bing. Poco! Ciao Bing. Ciao Charlie. Ciao Bing. Ciao Bango. Ciao Bango. Ciao Bing. Ciao Sura. Qualcuno ha di fretta? Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Ma quanto gli piaceva questa canzone a Giordano. Però adesso io approfitto del fatto che è un po' distratto, perché c'è Aria che lo sta riempiendo di baci, vero? Che fa Aria? Prendimi per sedere. Davvero? Te dai mozzichi? No, te dai mi odora il sedere. Ah, davvero? Sì. Ah, vabbè, d'altronde è un canetto. Che canetto? Un canone. Vabbè, cannonone! Un cannonone! Due puzzette. Due puzzette? Ecco perché ti odora il sedere allora. Però, quando arriviamo a casa, faccio 100 puzzette. Certo, e grazie, facciamo una bella. Boom! Un bel puzzetta party. Allora, adesso ci sentiamo una bella canzone che piace a me. E spero che piaccia anche a tutti voi che state ascoltando. E si chiama Kisses. Big Bent. Buon ascolto, a tra poco. Scusate, mi sono strozzata. Boom! Jim, pop, pop, boo, bed, boo, bed, boo, bed, boo, bed, boo. Thank you. tipo romantica, mi è sopraggiunta una super mega richiesta. E allora questa è la canzone del mio cartone preferito e la dedico a Giordano per quando sarà grande. Time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down south, I'm gonna leave my woes behind. Ample parking day or night, paper spouting and cotton never. Heading on up south, I'm gonna see if I can't unwind. So come on down south, I can meet some friends of mine. Time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down south, I'm gonna leave my woes behind. E ci sentiamo tutte le versioni che ci piacciono tutte. Going down south, I'm gonna see if I can't unwind. So come on down south, I can meet some friends of mine. Once again. Going down south, I'm gonna have myself time. Eccone un'altra. Altra. I'm going down south, I'm gonna have myself time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down south, I'm gonna leave my woes behind. Ample parking day or night, people shouting hardy never. Heading on up south, I'm gonna see if I can't unwind. Come on down south, I'm gonna meet some friends of mine. E dopo queste 4 o 5 sigle dei South Park, io continuo con la mia linea romantica, romanticamente Queen of the Stone Age, Make It With You, ma è molto, molto, molto, eh. Sure. Piaciuta? Chissà. Giordi, ti è piaciuta questa canzone, amore? Sì. Sì, così. E poi? Che mettiamo? Vediamo un po' qua dentro che cosa c'è di bello. E shoppe ship. E shoppe ship. Ta-ta-ra-ta-ta-ra. E shoppe ship. Nai nai na na. Na na na na. Oh, night view. Let the baby be. Oui. Oh, wap, dudrap, dudrap, what a ship. Va bene, nel frattempo che aspettiamo una canzone, metto Jump. Non so. Forse è di Madonna, non lo so di chi è veramente. Ho preso uno a caso. Thank you. in mano la situazione, perché la mia linea romantica è stata un attimo messa tra parentesi con Madonna Jump, e adesso ci sentiremo Perfect Circle, The Hollow. One motel, cater to the No ragazzi, avevo spinto un pulsante e si era oscurato tutto, però grande, il mio super tecnico è grande. Allora, adesso ci sentiamo Superman di If. Giusto per continuare con la mia linea romantica, per me questa è romantica. Intelligence, all its volete sentire che frasi cliché proprio qua dietro alle mie spalle? Perché ho fatto piangere il mio bambino per una galletta di riso? No, de mais? Gli uomini non piangono. Com'era? Gli uomini lavorano solo. E com'è? Non è vero. Gli uomini piangono, non lavorano, siamo tutti uguali. Vabbè, comunque... E vi saluto con una bella traccetta di Aphex Twin consigliata dal mio tecnico informatico e poi vi anzi lascio il testimone ai ragazzi del punk e ci sentiamo on di Aphex Twin. Ciao a tutti e tutte, buon pomeriggio e buon punk dopo. Ciao belli a tutti, ciao belle tutte.